ma se uno ha la ritenzione idrica e va nel deserto, resiste di più? Beh, il dromedario magari soffre di ritenzione idrica, scopriremo certo in questa occasione. Se le dromedari hanno la cellulite. Chi lo sa? E con questa... Vorrei sentire Anna dalla provincia di Pavia, perché ho letto Pavia e Pisa. E so bene che i vigneti non si innaffiano, come subito prontamente mi ha rilevato. Ma noi andiamo a Vinita lì lunedì, ti spiegano tutto. Giancarlo da Firenze. Se vogliamo mettere una piccola vigna. Di Nicoletta Carbone e Deborah Rosciani. Ti porterò nei posti dove c'è del buon vino. È festa, festa, fino a mattina. Sirena con due occhi grandi come la fame. Balla, balla e poi lasciami qui. E noi siamo proprio in uno di quei posti in cui c'è del buon vino, come cantano i Liptiva, anzi direi il posto in questi giorni in Italia, perché siamo a Verona, ospiti di Vinitaly, Salone Internazionale del Vino e dei Distillati, che è giunto alla sua 49esima edizione. Insomma, i prossimi sono 50, Deborah. L'anno prossimo grandi festeggiamenti, prevediamo. E si concluderà il 25 marzo. Ieri il Gastronauta ha inaugurato le trasmissioni di Radio 24, oggi siamo qui noi con la diretta di Cuore e Denari fino alle 12.30. Ricordiamo i parametri per raggiungerci: al padiglione 8, stand I2-I4, ospitati dal Consorzio di Tutela del Conegliano Valdobbiadene Prosecco Superiore di OCG. Alle 17 sarà la volta di Focus Economia, poi domani tutti convocati e di nuovo Focus Economia. E anche noi con il nostro taglio alla Cuore Denari ci immergiamo oggi in questo settore che è sempre più attrattivo per i mercati internazionali, ma anche per gli amanti di questa eccellenza italiana. Allora Deborah, io direi, se tu sei d'accordo, di leggere la carta dei vini per questa puntata? Sono pronta. Dai. Allora, inizieremo conoscendo un ospite che ci accompagnerà per tutta la trasmissione, con cui parleremo delle nuove tendenze del consumo di questo prodotto. Scopriremo un parallelismo che a qualcuno potrà sembrare azzardato, ma non lo è, fra vino e finanza. Parleremo anche di consumo responsabile e sostenibile, delle opportunità occupazionali di questo settore. Ce n'è per tutti i gusti. E a partire dalle 11.30 parleremo di alcune sostanze presenti nell'uva, nel vino e nei prodotti vegetali in genere, su cui si concentra la ricerca e a cui sono state attribuite delle proprietà antiossidanti e anti-aging, ma parleremo anche di bellezza e di vinoterapia. Il vino ha delle proprietà cosmetiche, sì, giusto? Sono pronta a fare il test, se vorrai. Allora, il menù è ricco, allora non ci resta che invitare anche voi. Raccontateci all'800 24 00 24 qual è il vostro rapporto con il vino, qual è il vostro preferito, che consumo ne fate. Magari parlateci anche, se volete, di un abbinamento originale con un alimento a cui non avevate mai pensato, l'avete sperimentato di recente, è riuscito, vi siete trovati bene. È stato amore a prima vista, esatto. Primo assaggio. Il nostro numero verde è a vostra totale disposizione. C'è qualcuno seduto all'ombra oggi, perché qualcun altro ha piantato un albero molto tempo fa. Warren Buffett. Pazienza, attesa, lungimiranza e frutti buoni da raccogliere. Sicuramente tutto questo ci fa pensare ad un buon bicchiere di vino e alla storia che può starci dietro, no? Che dici? Ma a me, che sono una donna di denari, non può che far pensare anche al mondo della finanza. Questa settimana, tra l'altro, dopo questa bellissima trasferta al Vinitaly, ci vedrà impegnate anche in 3 puntate in diretta dal Salone del Risparmio a Milano a partire da mercoledì. E vino e finanza, questi due temi che troviamo insieme in un'unica settimana di Cuore e Denari, sono due mondi che hanno molti lati in comune. L'investimento come il vino ha bisogno di molto tempo per dare i suoi frutti e i suoi risultati, che spesso sono più di qualità che di quantità. In finanza, come come in vitivinicoltura esiste il concetto di capitale paziente, che è quel capitale che garantisce, come tutti, un ritorno economico, ma più lentamente e a tassi inferiori. Oggi ci porta nel mondo della finanza paziente abbinata al vino e alla vitivinicoltura un ospite di Cuore e Denari che è venuto a trovarci qui negli studi di Radio 24. Pazientemente. A cui... ci sopporterà per un'ora e mezza, per cui tra l'altro io e Nicoletta ci tenevamo molto a questo invito. Giacomo Moglioli, benvenuto e bentrovato. Oh, grazie, benvenuti a tutti quanti. Ho bisogno voi. Di 10 minuti per la lettura del curriculum e racconterò solo i punti salienti della sua articolata carriera, oltre al fatto che ce lo dicevamo a microfoni spenti. Mi piace anche ricordare che qualche guida ai vini l'ha anche scritta e composta, redatta. Sì, direi, per tanti anni direi. Esatto. La mia gavetta è stata lì. È consulente oggi strategico per aziende, per istituzioni, per la comunicazione sui temi dell'innovazione e la sostenibilità. È stato cofondatore con Carlo Petrini di Slow Food, esperto di fenomeni, di tendenze di consumo e di tanto altro ancora. Io vi leggo un brano tratto da uno scritto di Giacomo nel quale mi sono imbattuta qualche tempo fa e che mi aveva molto colpito, quindi ho pensato che fosse anche giusto per iniziare la trasmissione di oggi. Non finirò mai di insistere sulla positività e sul valore aggiunto che il fattore tempo, il tempo che possiede una direzione, riesce ad imprimere alle cose, all'economia, al risparmio, alla vita delle persone, alle questioni che ci riguardano più profondamente e nel caso in questione persino ad un prodotto così complesso e naturale come il vino. Giacomo, come lo commentiamo insieme in un mondo in cui siamo sempre tutti più di corsa, no? Quali riflessioni possiamo fare sull'importanza del fattore tempo per il vino, che può poi alla fine diventare anche metafora per i nostri soldi, i nostri denari? Ma a me piace ripetere questo concetto. Il tempo è un fenomeno che fa e che dà e che accresce valore alle cose. Nel caso specifico del vino, tu parlavi prima di capitale paziente, dobbiamo cominciare a immaginare un vino paziente, una vigna paziente, un prodotto che è frutto del tempo, di investimenti mirati, di scelte ponderate, ma soprattutto di un disegno, la capacità di immaginare un territorio, di portare valore a questo territorio, riuscendo a stare con i piedi, la testa e il cuore dentro la terra. Allora, 800 24 00 24, sentivo tutta la passione e il cuore che ci mette il nostro ospite. Oggi vogliamo anche fare due chiacchiere con voi, con i nostri ascoltatori, metterei un trattino, consumatori e amanti del bere morigerato di qualità. Qual è il vostro modo di consumare il vino, magari il vostro abbinamento preferito? Si sentite di essere competenti, vi affidate, scegliete voi? Possiamo anche farci dare una mano, naturalmente. Anzi, bravo. Dal nostro Giacomo Vogliamo Moglioli. Anche chiedere ai nostri ascoltatori se magari vi state cimentando con qualche ricetta nuova e non avete ben capito con che tipo di vino potete abbinarlo, magari oggi Giacomo ci darà anche qualche suggerimento in questo senso. Raccontateci anche se una buona bottiglia di vino fa parte della vostra spesa, se lo comprate da un produttore e lo imbottigliate come faceva mio papà. Raccontateci che consumatori siete rispetto a questa nostra eccellenza italiana. Oltre all'800 24 00 24 potete naturalmente anche scriverci al 349-238-6666, ma online il nuovo sito di Radio 24, www.radio24.it, aggiornato, ricco di notizie, di tanti contenuti legati ai nostri programmi, fruibile comodamente da ogni tipo di dispositivo. Dal menu a sinistra, sotto la voce programmi, trovate facilmente la pagina di Cuore Denari. Andate lì e stateci. Esatto. Mi raccomando, con tutti i podcast, gli approfondimenti, i nostri progetti e l'integrazione con i social, quindi potete commentare direttamente dalla nostra pagina sul sito oppure lasciando commenti, quindi cliccate su iscriviti per ricercare tutti gli Benissimo. Aggiornamenti, fatelo subito che ci date grande soddisfazione. E poi naturalmente vi ridaremo di nuovo tutte queste istruzioni per chi le avesse perse. Allora Giacomo Moglioli, abbiamo parlato di fattore tempo, sappiamo che anche il modo di consumare il vino cambia con il tempo e sta cambiando molto in questi anni, ci dai qualche suggestione sulle tendenze nuove che vedi, come sta cambiando nel modo di avvicinarsi al vino il piccolo consumatore? Poi poi racconterò anche qualche dato che è circolato in questi giorni sul quanto si consuma, anche se non interessa il come particolarmente. Ma in un certo senso sono i dati stessi a dirci che il mondo del vino sta cambiando, e a mio parere sta cambiando su un dato importantissimo, quello di essere diventato un prodotto che con intelligenza comincia ad entrare dentro la quotidianità, ed è questa la grande sfida futura. Noi oggi siamo a Vinitaly. Il problema non è che qualcuno venendo qui o con tutto il risultato che Vinitaly avrà in termini di comunicazione consumi tanto vino personalmente. La grande sfida è quello che molte persone comincino ad avvicinarsi con un consumo morigerato e intelligente al mondo del vino. È un po' quello che accade nel mondo dell'editoria. Il problema non è che noi ci mettiamo a leggere uno o due libri in più. Il problema è che le migliaia di persone che non hanno mai letto leggano un libro. Ecco, il mondo del vino ha bisogno di questo, che quelle migliaia di persone, di giovani, che forse non hanno mai avvicinato questa cultura, questa esperienza, la avvicinino con una cultura, con attenzione e soprattutto con tanta passione. In questo modo il mondo del vino può crescere. I dati dell'Organizzazione Internazionale della Vigna e del Vino parlano di un consumo pro capite di vino in Italia che supera i 35 litri per il 2013, nel 2006 erano oltre 46. Secondo te questo ridimensionamento quantitativo è andato a vantaggio del consumo di qualità? Giacomo? Sicuramente sì. L'importante è che nel futuro, come dicevo, si moltiplichino le situazioni dove un prodotto importante come il vino, che non dimentichiamolo, fa parte della nostra cultura tradizionale, abbia la possibilità di essere avvicinato con informazione e quindi, io dico, anche con una divulgazione giusta, con linguaggi giusti. Avvicinarsi al vino con la corretta informazione, mi sembra che questo sia un concetto chiave, Giacomo, ma secondo te, che ti occupi di comunicazione, come far passare questo approccio alle persone che, parlavi dei giovani, che sono, no, si sono lasciati un po' fuori dalla cultura del vino? Bisognerebbe spostare proprio l'ottica, lo sguardo con cui osserviamo questo fenomeno. Prima si diceva che il vino è rispetto del tempo, ha bisogno di tempi, ha una sua esperienza specifica. Il mio sogno è che prima di tutto questi giovani riescano ad avere un'esperienza andando a vedere dove il vino si produce, come si produce, che cosa sta dietro a questo mondo. Conoscendolo, anche il rapporto e il modo di consumarlo sicuramente cambia. Leggo intanto qualche messaggio al 349-238-6666. È vero, magari questa poi parte Nicoletta te la conservi se vuoi per la parte di cuore, è vero che bere il vino bianco dopo molti anni può portare addirittura del tremolio, solo una fantasia, poi cercheremo di appunto fare una valutazione su questo aspetto. Bevo poco vino ma preferisco il rosso di buona qualità con marchio DOC o di OCG. Quale usare per pere Mazda Mera al vino? Bruna, Giacomo, ti lascio riflettere un attimo magari prima di rispondere. Non so neanche questo tipo di frutta quale sia, Nicoletta. Beh, non so, comunque forse, sono le pere Martine, io metterei un bel rosso, ecco, con cannella, chiodi di garofano. Eccoci qua. E zucchero, Giacomo. Sì, dopodiché io non appartengo a quella generazione di bevitori ligi all'abbinamento e alla logica del consumo tecnico. Però io sono piuttosto laico. Sì. Con le pere la tradizione vuole vino questo rosso, certamente, no? Il Prus Martin, come si chiama in Piemonte. Allora pensiamo appunto anche a chi compra abitualmente e alle nuove abitudini, alle nuove tendenze che si vanno manifestando. Tra l'altro c'è questa passatemi il termine, abitudine nuova che si va manifestando anche nei ristoranti, dove oggi anche per questioni di budget si prende sempre un po' meno la bottiglia, magari si consuma di più a calice, e questo comporta necessariamente per il ristoratore l'obbligo di riorganizzarsi, non può certo buttare le bottiglie aperte di cui ne è stata consumata appena la metà nel riciclarlo per cene in serate successive. Anche l'industria in virtù di questo si sta riorganizzando, proprio con Giacomo Moglioli nel Chianti abbiamo visitato visitato un'azienda che fa proprio questo, costruisce macchinari per evitare che il vino si ossidi quando il ristoratore deve aprirlo, no? Anche questo c'è di nuovo. Sì, noi dobbiamo immaginare un consumo che faciliti l'avvicinamento intelligente al vino, e allora questo significa che dovremmo pensare ad un futuro dove il vino verrà distribuito anche in modo attento e sfuso, oppure con dei macchinari che permettono di conservarlo intelligentemente, di ricercare con curiosità vari abbinamenti, di assaggiare, di percorrere anche incontri nuovi con il mondo del vino. Noi dobbiamo sempre di più capire che i consumi stanno cambiando in tutto quanto, e anche il mondo del vino fa parte delle abitudini, dei fenomeni di costume. Solo se metteremo il vino dentro la società reale impareremo ad analizzarlo e a parlarne in modo concreto. Allora, forse Vincenzo, che ha chiamato l'800240024, sarebbe stata la persona giusta per rispondere alla nostra ascoltatrice che chiedeva il tipo di vino da utilizzare per cucinare le pere al vino. Vincenzo infatti è un ristoratore. Buongiorno. Buongiorno. Buongiorno. Prima di farmi la domanda, risponda lei alla nostra ascoltatrice. Vino per fare le pere al vino, che vino metterebbe lei? Ma le pere al vino, la sua definizione è locale, patriarcale. Noi facciamo sempre le pere al vino e usiamo magari il nostro vino locale per valorizzarlo, un buon Barbera, anche un dolcetto. No, perché io mi sono buttata subito sul rosso, volevo che fosse questa. Vincenzo, ci andiamo dica, a lei, grazie. Che ci racconta? Certo, quello che volevo appunto precisare sul consumo di vini in questo momento, che è tempo di crisi, per cui noi siamo su un'arteria autostradale importante, la Sicunio, per cui abbiamo questo problema del consumo del vino. Però io, come essendo un barman dell'Aibes un po' di anni fa, avevo suggerito e avuto un bel successo anche di portare il vino alla conoscenza dei giovani sulla miscelazione, perché il vino sì che è nobile, non bisogna mai disturbarlo dal suo letto tradizionale, un Barolo o un Nebbiolo, vi dicendo, vini antichi, nobili. Però preparare uno dei sparling a base di vino e consigliarli, mi ricordo da due ho portato 10 barme dell'Aibes che abbiamo preparato tutti i vini a base di, tutti i cocktail a base di vino, tra cui c'era il Malvasia, il Barghetto, il Nebbiolo. E ha avuto tra i giovani un riconoscimento particolare, per cui la cultura del vino bisogna incominciarla in questo senso qui, cioè portare alla conoscenza di certi tipi tecnici del vino per elaborarli senza disturbarli più di tanto. Io mi ricordo avevo preparato un cocktail che si chiamava Luna Piena e aveva una Malvasia che la completavo per finire il cocktail ed era gradevole, cioè risalta anche il vino in certi modi di miscelazione. Vincenzo, lei ci sta introducendo in un mondo che è già molto sofisticato per quello che riguarda un po' forse la necessità che ha di arginare, no? La trattazione di questo argomento cuore denari, ma la ringraziamo per aver condiviso con noi tutte queste sue idee, delle quali chiedo un commento a Giacomo Moioli. Sì, benvengano le idee, la ricerca, l'innovazione, anche se io rimango del mio pensiero, la cosa importante è riuscire a far conoscere ai giovani i territori, le storie, le esperienze, certo trovando dei linguaggi accattivanti e meglio ancora delle situazioni che riescano a rendere il vino qualcosa di piacevole oltre che di intelligente. Allora, peraltro, a proposito di modi nuovi di consumare il vino, proprio qua al Vinitaly in questa occasione sono state condotte da molte società molte sperimentazioni. Io, tanto per cominciare, Nicoletta, non sono potuta andare, mi scoccia molto, ho ricevuto un invito ad una serata sushi e verdicchio con Moreno Cedroni, era sabato, ero a Milano, non potevo andare, ma ad esempio qui al Vinitaly ho visto anche una degustazione Valpolicella e vegan o vegan. Tante curiosità, tanti Giacomo. Abbinamenti. Giacomo, come chi la vedi? Dice che la pizza con il vino non diventi un domani? Io sono sempre stato curioso e ho sperimentato, verificato in tutte le mie esperienze di lavoro che per parlare di vino bisogna riuscire a parlare di questo in modo aperto, e quindi anche gli abbinamenti, a parte alcune considerazioni classiche, devono essere molto laici e molto pensati in termini creativi. Del resto il mondo del vino deve riuscire ad amalgamarsi con il modo di mangiare, e il modo di mangiare sta cambiando, e di conseguenza anche il modo di bere dovrà sempre di più rendersi fruibile, attento e aperto ai cambiamenti. Quale messaggio, Nicoletta? Allora, volevo, sì, un'ascoltatrice ci chiede un consiglio per iniziare a informarsi, a sapere di vino, libri, corsi, modi per avvicinarsi a questo mondo. Si inizia degustando, si inizia leggendo, anche io pensavo ci quello. Si iscrive ad un corso. Ma credo che ci si fida dell'amico che sa tutto. Ecco, l'ingrediente e il segreto sia l'amico, non quello che sa tutto. Bravo. Perché molte volte diventa pure noioso. Bravo. Ma quell'amico simpatico che riesce a farti vivere un'esperienza in modo piacevole. Da lì poi è un po' come ascoltare la musica, come leggere dei libri, come avvicinarsi al grande cinema. La passione diventa tale nel momento in cui, però, io consiglio, vengono fatte conoscere cose che devono essere affascinanti fin dall'origine, fin dall'inizio. Insomma, bisogna avere un Giacomo per amico, un Giacomo Mojoli per amico, vero? Ecco, questo potrebbe... è uno dei nostri migliori amici, cara Nicoletta. Cuore e denari. Max, ti ho mai detto perché fare il vino è per me fonte di grande piacere? Tu non fai il vino, zio Harry, è il signor Duflo a farlo. In Francia è sempre chi possiede la terra che fa il vino. Anche se non fa nulla di più che osservare col binocolo dalla finestra del proprio studio. No, io amo fare il vino perché questo nettare sublime è semplicemente incapace di mentire. Vendemmiato presto o tardi, non importa. Il vino ti bisbiglierà in bocca sempre con completa e imperturbabile onestà ogni volta che ne berrai un sorso. Noi oggi parliamo di questo nettare sublime e delle sue virtù utili sia per il benessere, ma di questo parleremo più tardi, ma anche per la bellezza. Udite, udite. È vero, parliamo di vinoterapia, che tra l'altro affonda le radici in un passato millenario, arabi, egizi, greci, etruschi, romani già la conoscevano per bene. Sì. Noi oggi la conosceremo grazie a Chiara Lungarotti, che è qui in studio con noi, amministratore unico del gruppo Lungarotti. Con Chiara, ciao Chiara, benvenuta. Buongiorno. Andiamo direttamente in Umbria, esattamente tra Torgiano e Montefalco. Esattamente, la nostra azienda ha sede a Torgiano e poi abbiamo una piccola azienda anche a Montefalco, le due zone di produzione del rosso in Umbria. Magnifico. Allora, la Fondazione Lungarotti, tra l'altro, è famosa anche per il museo esatto, del vino, che il New York Times ha definito come il migliore museo del vino in Italia, insomma. È uno dei più importanti anche a livello internazionale. Vero? Che cosa c'è di... Facci venire la voglia di fare un salto a Torgiano. Allora, entrando al museo si percepisce subito, si capisce, si apprende tutto quello che è stata la grandissima importanza del vino per la nostra civiltà mediterranea dall'origine ad oggi, attraverso collezioni archeologiche, etnografiche, vale a dire come nulla sia cambiato in vigna dai tempi dei Romani e anche in cantina dai tempi dei Romani fino agli anni 50 del secolo scorso, e poi collezioni di ceramiche dal Medioevo ad oggi, e poi il vino visto come il vino sulla tavola, il vino come medicamento e il vino nel mito, e una delle sezioni è dedicata proprio al vino nella cosmesi. Vedi che c'erano dei profumi che erano utilizzati in un tempo con funzione prettamente igienizzante, antibatterica, e ci sono anche degli aromi legati un po' al mito. Tutte queste ricette voi le riutilizzate, ne avete in versione naturalmente moderna? Sì, nell'ambito della collezione del vino nella cosmesi ci sono vari testi che dimostrano, che parlano di quelle che è stato l'uso millenario di questo prodotto, ma soprattutto quelli che sono stati poi tutti i vari segreta, i cosiddetti segreta, che erano dei volumetti tascabili che erano molto di moda nella seconda metà del 600. Uno di questi era stato scritto da una signora che si chiamava Isabella Cortese, in cui il vino veniva impiegato in formule e rimedi ai fini cosmetici, e da questi abbiamo tratto ispirazione per quelli che sono i trattamenti che utilizziamo nella nostra spa Bella Uve del nostro resort Le Tre Vaselle, che si trova proprio a Torgiano, di cui ci darai però qualche ricettina, sì. Perché noi vogliamo uscire di qui con almeno due ricette in tasca. Ah, pensavo con perché 10 anni in meno, vino, già così un po' il vino non strana. Si versa nel bicchiere ma anche nella vasca da bagno. Anche ecco, è un bel investimento, è un bagno schiuma un po' caro, però ci si può provare, insomma. 800 24 00 24. Tra poco parleremo anche di modi diversi di usare il vino, che vanno oltre alla degustazione di un calice. Chissà se magari nei ricordi della vostra famiglia c'è un utilizzo del vino un po' particolare, magari in un rimedio della nonna, in una ricetta, un modo per togliere una macchia di vino da un vestito, dalla tovaglia, che è sempre la nostra grande tragedia, o magari un modo di dire legato al vino. Scrivetecelo se volete anche in un messaggio al 349 238 6666. Se invece volete utilizzare i nostri social network, dovete andare sul nuovo sito di Radio 24, www.radio24.it, da oggi completamente rinnovato ed aggiornato. Allora Chiara, portaci dentro nella tua bella spa, Bella Uve, giusto? Si chiama così, Bella Uve, e sì. Rende anche bella. Quando uno entra lì e esce diverso. Mi avevi promesso fuori onda che ci avresti regalato qualche ricettina, e mi avevi parlato di uno scrub, proprio venendo in Vin Italy con Deborah ci guardavamo e dicevamo: guarda che, sì, che colore dell'inverno che, no, abbiamo ancora addosso. E io subito a Deborah ho detto: qua ci vuole uno scrub, sì o no? È arrivata che... Chiara, allora è vero. Guarda, volendo uno scrub semplicissimo, è un sciogliere un pochino di sale nel vino rosso, e poi leggermente stiepidito, e poi stenderlo, si massaggia e poi si toglie con una doccia. E la cosa ideale è poi poter fare un bagno al vino nella nostra spa, oppure farsi un massaggio a base di un olio extravergine di oliva. E lì polifenoli a gogo. Ne parleremo nella seconda parte della trasmissione con un grande esperto, Marco Malaguti, ricercatore per il Dipartimento di Scienze per la Qualità della Vita dell'Università di Bologna, che ci racconterà tutto quello che è contenuto nell'uva, nel vino, ma nel mondo vegetale in genere. Chiara, che cosa vuol dire per te, donna, occuparti di un gruppo così importante e quindi portare avanti la cultura del vino? E così addentrarsi, vorrei anche coinvolgere Giacomo, abbiamo parlato di comunicazione, cioè un nuovo modo anche di comunicare il vino, di avvicinare i giovani, di sottolineare queste radici del territorio, di far vivere la nostra storia. No, tra l'altro so che nel museo c'è un percorso didattico, mi suggeriva proprio Giacomo Moioli. Per bambini. Ecco. Proprio perché la funzione di educazione è fondamentale, far capire quello che è un prodotto, che è parte integrante della nostra storia, della nostra tradizione, della nostra cultura, e questo al museo è possibile. È stato fatto proprio un percorso del museo per bambini, proprio per spiegare anche con un tono più facile quelle che sono state nel corso dei secoli i mille usi di questo prodotto. Però per una donna è come per un uomo, metterci tutta la sua passione è quello che fa la differenza. Penso che è lì, è il cuore che batte nella nostra terra. Quindi non è difficile per una donna accreditarsi in un mondo come questo, che rimane ancora prevalentemente maschile, oppure diciamo che ormai questo stereotipo è totalmente superato? Diciamo che ormai questo stereotipo si sta stemperando, ma sicuramente... È la passione e la carica che dà la nostra terra è unica. Allora, no, stavo pensando in modi nuovi per comunicare il vino: verdicchio e sushi, Valpolicella e vegan, Giacomo Moioli, e poi tutta appunto questa branca che non è assolutamente nuova, perché le radici sono ben radicali in epoche molto lontane da noi, però certamente oggi hanno un valore molto originale, no, rispetto a quelle che potevano avere nel passato, queste applicazioni nuove legate anche alla cura della persona. Ma a me piace ripetere che anche la felicità fa parte della salute. E il vino altro non è che un momento di felicità se vissuto in modo intelligente e attento. Il vino porta euforia equilibrata, e proprio questa euforia equilibrata ci permette, in molti casi, è un modo comune di dire, di fronte a un bicchiere di vino la vita può apparire molto più allegra. Poi ci sono le altre declinazioni. In sostanza, a me piace ribadire che dobbiamo immaginare il vino come un network, come una rete, pensarlo come un linguaggio multidisciplinare dentro il quale nel futuro devono entrare tante altre esperienze. Un tempo parlavano di vino solo gli esperti, i sacerdoti del vino, e forse lo bevevano anche in meno. Oggi, giustamente, del vino se ne comincia a parlare, a cominciare dai bambini, che possono essere educati ad un rapporto, soprattutto con la terra, che li porterà poi, da grande, ad avere un rapporto equilibrato e saggio con il vino. E consapevole. Allora... 800 24 00 24, ci state chiamando, il nostro numero verde, dove vogliamo andare? Proviamo ad andare, prima di sentire i suggerimenti per chi è in viaggio, a Bruno, da Bruno che ci chiama da Treviso. Buongiorno Bruno, benvenuto. Sì, buongiorno, grazie. Io abito appunto a Treviso, nella gioiosa Marca, tutta la valle, diciamo la pianura della Piave, che va da Vadoviadene, Conegliano, fino al mare. Ecco, fin da piccolo ho avuto sempre passione, diciamo così, di visitare questi agricoltori, dove che qui abbiamo un'infinità, diciamo, di tipi di vino, ne parlano oltre un centinaio, e ultimamente, soprattutto io ho 75 anni, io preferisco andarmi a prendere il vino da questi che conosco tutte le piantagioni, conosco i trattamenti e tutto, e alla fine me lo porto a casa e l'imbottiglio. E scopro era questo, che il vino lo pago circa 1,50-1,60 il litro, vino DOC, quindi vede che costa meno della Coca-Cola. Quanto riguarda questo, sono vini che poi, non è che sia un venditore, però ha un culto, e di questo mezzogiorno alla sera un bicchiere, questo è sufficiente. Per esempio, ho scoperto un vitigno che c'è, diciamo, un'uva che si chiama Ancellotta, che ha 5 volte i polifenoli di un vino rosso normale e 10 volte di un vino bianco, quindi anche questa è una scoperta. È una scoperta. Mi dà il nome del... Quindi si chiama Ancellotta, primo Novecento, che qui diciamo nel Veneto non viene usato, non posso non mettere questo nome, si chiama vino rosso del bosco, perché hanno capito prima... Chiara, diciamo, Lungarotti mi sta suggerendo che è salentino, così no? Che c'è un vitigno che è nostro, tipico di Umbria, che si chiama Sagrantino, che è la varietà più ricca in polifenoli che ci sia al mondo. Vedi, a scuola per non suggerire, vedi, guarda, fantastico per i polifenoli, ma a scuola bisogna anche capire quando ti suggeriscono. Io se ho capito subito Salentino, andavo giù nel Salento, invece non ci fermiamo a copiare, niente, eri onesta a no, scuola. No, suggerivo io. Ah, ecco, vedi? Brava. Cuore e denari. A un certo punto il vino viene a mancare e la festa sembra rovinata. Immaginatevi finire la festa bevendo tè. Senza vino non c'è festa. Nicoletta se lo dice lui, che senza vino non c'è festa. Chi siamo noi per contraddirlo? Non potevamo che raccomandarne la qualità, consumo naturalmente ragionevole, e riconoscerne le virtù. Se nella prima parte abbiamo parlato di vino dal punto di vista del consumo, ora stiamo continuando a scoprirne altri aspetti, forse un po' meno come dire, commentati in maniera diffusa, ma altrettanto di valore. Eh sì, infatti, come anticipato, in questa seconda parte andiamo a conoscere più da vicino alcune sostanze presenti nell'uva, nel vino, nel mondo vegetale in genere, che svolgono un'azione preziosa, benefica per la nostra salute, perché aiutano il nostro organismo a combattere, per così dire, la sua battaglia contro i meccanismi cellulari che portano allo sviluppo delle malattie. Sono i polifenoli, una famiglia molto ampia di sostanze che noi non siamo in grado di produrre e che però normalmente acquisiamo attraverso una dieta varia ed equilibrata, e in modo particolare con il consumo di frutta e verdura, sostanze che costituiscono il sistema immunitario delle piante, tanto che le piante le utilizzano per difendersi da batteri, funghi, avversità varie dell'ambiente. Bene, un'ampia mole di studi ha dimostrato che queste sostanze sono in grado di innescare un meccanismo antinfiammatorio generale con ricadute positive a livello cellulare e più in generale sull'organismo in toto. Insomma, non saranno i polifenoli ad allungarci la vita, ma potrebbero migliorarne la qualità. Ne parliamo oggi con il professor Marco Malagrini Laguti, ricercatore per il Dipartimento di Scienze per la Qualità della Vita, che è un dipartimento che io amo, perché un dipartimento che si chiama così è già, no, ti mette già ben disposta, dell'Università di Bologna. Professore, buongiorno. Buongiorno. Allora, noi parleremo di polifenoli, sostanze preziose a cui anche Chiara Lungarotti accennava, perché sono presenti nell'uva, nel vino, anche nell'olio extravergine d'oliva. Assolutamente. Per questo Chiara ci suggeriva poi di massaggiarci. Ecco, ma attraverso, se noi massaggiamo l'olio extravergine d'oliva, i polifenoli entrano? Forse sarà un po' dura. Forse vero? La biodisponibilità, dopo ne parliamo, attraverso la pelle dei polifenoli non è così. Non così è così alta. Immediata. Chiara, quindi voi usate olio con i vostri trattamenti, cercate comunque di sfruttare le proprietà del vino, le proprietà dell'olio, che sono prodotti della terra. Tu sottolineavi quanto fosse importante, no? Educare proprio all'amore della terra, ai prodotti della terra. Sì. E a venire a visitare. Qualcuno prima chiedeva come faccio a conoscere un vino. L'Italia è un paese splendido in cui ogni regione ha uno o più magnifici territori del vino. Andare a visitarli è il modo migliore per imparare a conoscere questo prodotto. Quindi dal Vinitaly viene poi la voglia di andare a visitare i produttori, la terra, e così si parte questo circolo virtuoso. Ma partiamo anche io e te, dai. Ma che stiamo ancora a fare? Intanto poi andremo a trovare Chiara, che intanto volentieri. Salutiamo, allora, grazie per essere stato con noi, verremo a vedere il museo. Grazie a voi, vi aspetto in Umbria. Volentieri, tra l'altro molti ascoltatori sono rimasti subito stuzzicati dai nomi del vino che abbiamo dato, che contiene tutti quei polifenoli di prima, magari lo possiamo ribadire prima che Chiara se ne vada. È una varietà che si chiama Sagrantino, che viene coltivata in una zona della zona di Montefalco, e è stato fatto recentemente uno studio dall'Istituto di San Michele all'Adige in cui hanno fatto proprio una mappatura e hanno visto che è la varietà più ricca al mondo. Ottimo. In termini di polifenoli. Sagrantino, perfetto. Grazie. E noi continuiamo a parlare di polifenoli in quantità e qualità insieme al professor Malagrutti. Lei conosceva questa... A dire la verità sì, anche noi è capitato in passato di studiarla, forse non così approfonditamente, però avevamo notato che ha un contenuto in polifenoli particolarmente elevato, quindi... Bene. Effettivamente è vero. Noi polifenoli si trovano nell'uva, non solo nel vino, ma sono presenti in tutti gli alimenti di origine vegetale. Abbiamo detto che costituiscono una sorta di sistema immunitario per le piante, e queste sostanze hanno catturato sicuramente l'interesse dei ricercatori, ma godono ormai di buona fama anche presso il largo pubblico, perché noi li immaginiamo intenti a sconfiggere e a neutralizzare i radicali liberi che remano contro la nostra giovinezza, il nostro benessere, ossidandoci o infiammandoci. Ma una premessa d'obbligo: la biodisponibilità, concetto che il professor Malagrutti ci spiegherà proprio per bene, la biodisponibilità di queste sostanze è influenzata naturalmente da diversi fattori, come la struttura delle molecole, le interazioni con altri composti presenti nel cibo. Quindi l'equazione presenza di polifenoli uguale azione antiossidante va valutata attentamente. Quindi con Chiara Lungarotti dicevamo, non basta spalmarsi di olio perché i polifenoli entrino nei pori subito della pelle e sei tutto, no, antiradicale. Ci vuole, ecco, la biodisponibilità è un concetto un pochino più, no? più fine. Dettagliato, esatto. Effettivamente è proprio così, i polifenoli rappresentano un po' il sistema immunitario della pianta, nel senso che i vegetali, esattamente come le altre specie, hanno attraversato i millenni dell'evoluzione dovendosi adattare a stress differenti che cambiavano continuamente, e i polifenoli sono un esempio di, si chiamano metaboliti secondari delle piante, e hanno proprio la funzione di proteggere il vegetale stesso da quelli che sono gli stress e gli insulti che possono venire dall'esterno. E noi, nutrendoci di questi vegetali, ne sfruttiamo le proprietà a nostro vantaggio, chiaramente. È ovvio che non è tutto così semplice, l'aspetto della quantità è determinante. Quella che abbiamo citato prima come biodisponibilità è un concetto un po' particolare, rappresenta quella percentuale di una sostanza che dopo essere stata ingerita raggiunge effettivamente le cellule del nostro organismo. E sappiamo che è una percentuale abbastanza limitata, abbastanza bassa. Ma noi vi diremo come cercare di prendere dal mondo vegetale tutto il meglio. A tra poco, dopo il nostro GR. Cuore e denari. Oh, com'è bella la lua focarina, oh, com'è bello saperla vendemmiare. Protagonista di oggi, parliamo di uva, di vino, perché vogliamo parlare di polifenoli, sostanze preziose che i ricercatori stanno studiando e che non si trovano naturalmente solo nell'uva e nel vino, ma in tutti i prodotti di origine vegetale. Ne stiamo parlando con Marco Malaguti, ma naturalmente anche Giacomo Moioli, vedo che è molto interessato al tema di questa sorta di sistema immunitario delle piante. Il professor Malaguti ci ha però un po' spento l'entusiasmo, perché sono molto preziose, ma in realtà la loro biodisponibilità è piuttosto ridotta. Quindi come possiamo fare? È ridotta, però l'importante è assumerne a sufficienza per garantirsi gli effetti positivi. Qualche studio ha proposto che nella nostra tanto amata dieta mediterranea, o meglio la nostra tanto amata dieta mediterranea, ci apporti circa un grammo di polifenoli nell'arco della giornata. Ovviamente non si tratta di una singola molecola, si tratterà di una miscela, di un mix di sostanze anche molto differenti magari tra di loro, che però concorrono tutte insieme a determinare un effetto positivo per la salute. Ed è così che si introduce un argomento che è fondamentale in campo nutrizionale, cioè la sinergia che molecole diverse presenti magari anche in alimenti diversi possono concorrere tutte ad uno stesso e unico effetto, vantaggio, tanto che molto probabilmente l'effetto positivo che noi otteniamo dalla sinergia di più sostanze è superiore a quello che potremmo ottenere dalle singole sostanze prese appunto separatamente o singolarmente. Vedi, un po' come Cuore Denari, due polifenoli diversi messi insieme, una combinazione esplosiva, la biodiversità della comunicazione. No, posso dire che poi questa biodiversità ogni tanto crea qualche mostriciattolo. Ne approfitto, mi infilo per salutare il nostro nuovo amico di Verona, Nicoletta, si chiama Mirko e fa il tassista, con il quale ieri sera che me ne parla. Ecco, perché è molto simpatico. Ieri sera abbiamo avuto questa bella conversazione in auto. E perché dico abbiamo creato un mostriciattolo? Perché a furia di ascoltarci, non solo lui si è comprato il mulino in pietra e lì, come dire, grattugia, non so come si dica esattamente, grattugia. e praticamente crea le sue farine per la sua alimentazione, aderisce ad un gruppo d'acquisto. Devo dire che Mirko è un nostro vanto. E se abbiamo bisogno di un'auto, un taxi urgente, come vedi, ci scrive anche altre 49238666 ci viene a prendere al volo. Allora 800 24 00 24, se volete parlare con noi, intervenire in trasmissione, se volete raccontarci anche come, cioè, perché il professor Malaguti si dice i polifenoli con la loro azione antiossidante contrastano l'azione dei radicali liberi. Leggiamo sempre questa frase che abbiamo imparato a memoria, in realtà poi verrebbe da dire possiamo cercare di tenere un pochino più a bada questi radicali liberi, dargli un po' una calmata, dato che poi di polifenoli riusciamo a prenderne, quando va bene, un grammo al giorno, ecco. Certo. Se ci alimentiamo bene. Stiamo attenti a un aspetto importante. È vero che e da tanto tempo si parla male dei radicali liberi, ma stiamo attenti che anche in questo caso un pochino possono servire anche loro. Le nostre cellule, il nostro organismo è a contatto con queste sostanze fin dalla notte dei tempi, dall'inizio, almeno perlomeno dalla comparsa dell'ossigeno sulla Terra, quindi andiamo indietro un bel po'. Dobbiamo immaginare anche questi radicali liberi come sostanze che anche loro capaci di portare un messaggio in qualche modo al nostro organismo, alle nostre cellule. La loro presenza, soprattutto appunto se moderata e modesta, ha la funzione di dire alla cellula: guarda che sei sotto stress, è necessario e sarebbe il caso che tu attivassi le tue difese. Ed è proprio così che succede. Vedi, è un concetto un po' zen quello che lei ci suggerisce, no? Anche le persone magari che ci sono particolarmente complicate, che ci sembra che ci rovinino un po' la vita, in realtà anche loro possono aiutarci a sviluppare una sorta di resilienza. Anche quella è una sorta di allenamento. Vogliamo Allora, beh, allora noi abbiamo lanciato prima anche questo invito ai nostri ascoltatori a raccontarci se avessero in casa qualche detto particolare legato al vivo, al vino, figuriamoci quante cose delle nonne sono state tirate fuori dai cassetti da parte dei nostri ascoltatori. Gigi da Piacenza ci scrive: mia nonna diceva uomo di vino non vale un quattrino, era un proverbio per selezionare gli spasimanti. Molto bene. Adesso invece non sarebbe più attuale questo proverbio, vero Giacomo? Molte nonne investirebbero su tanti giovani che hanno scelto con passione di dedicarsi al mondo del vino. Bravo, e di questo poi Giacomo preparati, perché su questo vorrei interrogarti dopo, visto che oggi anche con la crisi occupazionale che c'è chi si cimenta proprio in questa professione, ci si lancia a volte in maniera non tanto consapevole, non molto conscia anche dello spirito di sacrificio che richiede lavorare in questo campo, perché proprio per la questione che indicavamo prima anche del capitale. E lì non paziente. Ci sono polifenoli, nel non mondo ci sono polifenoli che tengano. Allora, poi, adesso me lo son perso, beh, effettivamente Salvatore ci racconta con un messaggio molto lungo che addirittura ha puntato, innamorato di un territorio, Montemarano, ha puntato la sua pensione sul vino comprando una vigna certificata, ha costruito una piccola cantina, in futuro spero di riuscire a fare una produzione che mi permetta almeno di sopravvivere, per ora ho già la soddisfazione di vantare un buon bicchiere di vino. Allora lo introduciamo subito questo argomento del... puntare la propria pensione su questo. Ma più che un investimento economico, credo che farebbe piacere al professor Malaguti studiarne gli effetti. Io lo trovo un investimento per la qualità della vita. Ritornare alla terra, ritornare a coltivare una vigna, un orto, capire che la terra madre è un elemento chiave per il nostro futuro, può essere sicuramente una sorta di medicina omeopatica per pensare a una vita diversa. Sugli investimenti è cosa differente, ne parleremo credo in modo più approfondito poi. E quindi parliamo un po', investire nella salute, investire nella professione, nel territorio. Professor Malaguti, intanto abbiamo parlato di polifenoli, ma hanno differenze qualitative e quantitative, sembra che abbiano delle specializzazioni per così dire diverse. Alcuni sembrano avere un'azione protettiva nei confronti del cuore, altri del cervello, altri ancora dell'intestino. Insomma, se questo è vero e se voi continuate a studiare per bene, quindi noi siamo un po' nelle vostre mani, in futuro i polifenoli saranno anche utilizzati in modo sempre più mirato, quindi la quercitina per il cardiovascolare, oppure la curcumina per il cervello e così via. Per l'intestino che cosa mettiamo? Per l'intestino non tanto dei polifenoli, magari dei buoni probiotici, prebiotici. Vedi, ogni organo ha il suo. Come ogni vitigno ha la sua terra, ogni organo ha il suo polifenolo. Voilà, adesso vado. E con questa, vabbè, d'altronde fiera che vai, saggezza che ti riporti a casa. È vero, professore, comunque. Sì. È vero, nel senso che qualcuno sta già anche pensando di farlo, lo sta attuando, magari anche anticipando un po' quello che la scienza ufficiale potrebbe dire in materia. Tanti sono gli esempi di per esempio integratori che si stanno pensando, si stanno disegnando e producendo con l'obiettivo di mettere insieme una, due, tre molecole magari attive nei confronti della prevenzione di una certa patologia, e in questo modo proporre la possibilità di prevenire meglio le certe patologie. Gli esempi classici sono quelli che abbiamo fatto prima, la curcumina, appunto, non parliamo più di uva e di vino in questo caso, però sempre una molecola che fa parte della famiglia dei polifenoli, presente appunto nella curcuma, una spezia di origine asiatica che è particolarmente studiata nella prevenzione. Ma se io uso la curcuma tutti i giorni in cucina, questo mi protegge oppure è solamente un piacere anche per il gusto? È sicuramente un piacere per il gusto, e la protezione, anche qui bisogna sempre fare i conti con quel concetto di cui della parlavamo prima. Della biodisponibilità. Esatto. Anche qui parliamo di molecole comunque con biodisponibilità bassa, quindi di nuovo il messaggio deve essere sempre quello di sfruttare la sinergia tra molecole differenti. Non posso pensare di guadagnare tutta la salute possibile puntando tutto su una singola sostanza contenuta nel singolo alimento. Certo. Dovrò il più possibile variare la mia alimentazione, il più possibile scegliere alimenti vegetali, quindi ricchi di queste sostanze, appunto, adesso oggi si chiamano nutraceutici, capaci di favorire la mia salute prevenendo le patologie. E anche dal, ma detto nutraceutici, e anche dal Vinitaly noi abbiamo il nostro domandone. Vero? Perché c'è una sostanza che fa parte dei caroteni, e quindi è un nutraceutico a tutti gli effetti, possiamo dire così, sì. E che si attiva in cottura. Ne abbiamo parlato tante volte. Mamma mia, speriamo allora, che si ricordi. Allora, ditecelo, 800 24 0024. Sempre libri regaliamo, però sì, niente perché vino, non possiamo regalare casse di vino. No. Neanche però. Cioccolatine alla grappa. Possiamo però spulciare nella nostra libreria per vedere se c'è qualche buona guida, magari qualcuno che ha scritto di Giacomo Mojoli, scritte qualche tempo fa. Anche quello è un ottimo investimento. Altro che. A proposito di investimento, ti racconto che Anna Maria ci scrive, buongiorno, benvenuta nel Veneto, circa il vino per accompagnare dei bignè di baccalà. Ho appena investito una bella somma in una bottiglia di ribolla gialla di Radicon. È poco ma buono. Quanto può costare, Giacomo, questa bottiglia? Dai, fammi con fare precisione subito due conti. Non lo saprei, ma penso che dobbiamo parlare di una bottiglia sopra le 30 euro. Ah, e può essere considerata una bella somma? È una buona somma se noi teniamo sempre presente che dietro una bottiglia di vino c'è qualità della vita, e qualità della vita è uguale a qualità della vigna e della vite. Mm-hmm. Di conseguenza c'è un lavoro, c'è una scelta, c'è un investimento, c'è fatica. Ecco, a me piace leggere le quotazioni in base anche a ciò che si investe in termini di lavoro e anche di scelta nel tempo nei confronti della propria terra. Peraltro questo grande lavoro anche sui prezzi che si formano e che stanno dietro ai prodotti di qualità che consumiamo tutti i giorni e che portiamo sulle nostre tavole, anticipo già a mo' di segreto però, Nicoletta, Dai, che noi tra qualche settimana partiremo con un gran lavoro con Cuore Denari legato ad Expo 2015, per cui state allerta perché vi accompagneremo in un percorso che durerà molte settimane e parleremo anche di tutto questo. Sentiamo Stefano da Montepulciano. Volentieri. Che è povero, zona strepitosa peraltro. Sì? Volevo solamente chiedere al nostro professor Malaguti, a proposito di polifenoli, tra poco parleremo del VIP, dei polifenoli del vino, no? Perché anche loro hanno il loro VIP, il resveratrolo, che è un VIP come tutti i VIP, un po' chiacchierato, se ne dicono di buone, di cotte e di crude, mi veniva da dire di peste corna, ma non era quello. Più nel vino rosso, più nel vino bianco? Resveratrolo più nel vino rosso. Perché il VIP? Dai, dimmelo subito. Perché insomma hanno riconosciuto un sacco di proprietà, è il VIP, no? Perché hanno riconosciuto un sacco di proprietà, come tutti i VIP tante volte, molto spesso l'essere, la notorietà è data più dalla visibilità che dalle reali differenze rispetto agli altri. Ci sono tanti polifenoli che hanno le stesse proprietà del resveratrolo. Lui sicuramente ha avuto un grande successo di pubblico, nel senso che lo si è iniziato a studiare forse tra i primi alla fine degli anni 70, e se guardiamo il numero di pubblicazioni scientifiche, io sono nato con il resveratrolo praticamente. Polifenol da Oscar. La nascita l'ha segnato. Si diceva, no, che facesse bene, che fa, no? Bene per colesterolo, il cuore, eccetera. Poi ogni tanto le smentite. Le smentite sì, ci sono state, in realtà erano relative a qualche singolo dato. Insomma, ci piace il resveratrolo, lo promuoviamo. Diciamo, lo si continua a studiare e rimane comunque uno dei più... degli attori principali in materia di polifenoli. Benissimo. Allora, purtroppo stiamo chiudendo. Allora chiedo a Stefano da Montepulciano, intanto venia perché lo abbiamo fatto aspettare tanto. Siamo a lei, Stefano, buongiorno, e devo anche chiedere di essere sintetico oltretutto. Benvenuto. Buongiorno, innanzitutto volevo salutare voi due, vi ascolto sempre. Volevo intervenire dicendo che secondo me bisognerebbe fare qualcosa per incentivare i giovani ad avvicinarsi al mondo del vino. Ma non solo per il consumo, proprio per la produzione, perché mi rendo conto che è un lavoro faticoso svegliarsi la mattina, sporcarsi di terra, però regala tante soddisfazioni, regala tante soddisfazioni. Grazie Stefano. Concludevo dicendo che se volete... Dite. Sì. No, ve la volevo volete... regalare io una cassa di vino, se passate a trovarci allo stand dell'azienda agraria Antico Colle, ve la regalo io una bottiglia di vino. E se ce la mette così sul piatto d'argento, indaghiamo adesso per raggiungerla al volo. Peraltro proprio il distretto del Conegliano Valdobbiadene Prosecco Superiore offre tantissime opportunità di lavoro, ci hanno rilasciato dei dati incredibili che non riusciamo a commentare questa mattina, per cui raccogliamo molto volentieri questo messaggio del nostro giovanissimo produttore, poco più che trentenne, ci segnala appunto dalla regia. Allora, abbiamo Elisabetta. Eh sì, domandone. Dai, vediamo, e Elisabetta. Risposta. Elisabetta. Qual è quella sostanza, buongiorno, che si attiva con la cottura? Il licopene. Brava, che contenuto. Bravo, infatti salsa nel di pomodoro. Salsa di pomodoro batte pomodoro, sì, 1-0 per caso, sì, il vantaggio del licopene. Grazie Elisabetta, sì, le faremo grazie arrivare la librerina, una licopenata. Una salsa grazie, di pomodoro, buongiorno, della mamma di Deborah. Arrivederci. Allora, dunque, noi dobbiamo chiudere, ahimè, questa avventura a Vinitaly. Ci spiace, vi siete divertiti, speriamo di sì, ritornerete moltissimo a trovarci anche l'anno prossimo. Giacomo Moioli, grazie molto. Grazie per essere stato con noi, anche grazie al professor Malaguti. Noi torniamo, ahimè, a Milano, magari adesso andiamo a fare qualche giro per Stende, ma pochi minuti, Va mi bene, raccomando. A domani. Grazie a tutti.